Ad alta voce. Paola Pitagora legge Il diavolo in corpo di Raymond Radiguet. Traduzione di Giampiero Bona. Ne rischierò di rimproveri. Ma che posso farci? È colpa mia se ho avuto 12 anni, qualche mese prima della dichiarazione di guerra. Senza dubbio, i turbamenti che mi colsero in quel periodo straordinario furono di una specie che non si prova mai a questa età. Ma non essendoci niente di abbastanza forte per invecchiarci, malgrado le apparenze, finii per comportarmi come un bambino, in un'avventura in cui già un uomo si sarebbe trovato in imbarazzo. Non sono il solo, e i miei compagni serberanno di quel tempo un ricordo che non è quello degli anziani. Non si sono fatti un'idea di ciò che fu la guerra per tanti ragazzini. 4 anni di grandi vacanze. Abitavamo a F, in riva alla Marna. I miei genitori erano piuttosto contrari alle amicizie promiscue. La sensualità, che fin dalla nostra nascita si manifesta ancora cieca, invece di rimetterci, ne guadagnò. Non sono mai stato un sognatore. Ciò che pare sogno agli altri, ai più creduloni, a me sembrava tanto reale quanto il formaggio al gatto, nonostante la campana di vetro. Pertanto la campana esiste. Se la campana si rompe, il gatto ne approfitta, ancorché siano i suoi padroni a romperla e a tagliarsi le mani. Fino a 12 anni non mi scopro nessuna passioncella, tranne che per una ragazzina di nome Carmen, alla quale feci recapitare da uno sbarbatello più di me una lettera in cui le dichiaravo il mio amore. Quest'amore mi autorizzava a sollecitarle un appuntamento. La mia lettera era stata recapitata la mattina, prima che si recasse a scuola. Avevo notato la sola bambinetta che mi somigliasse, perché era pulita e andava a scuola accompagnata da una sorellina, come lo ero io accompagnato da mio fratellino. Per far tacere questi due testimoni, immaginavo in qualche modo di unirli in matrimonio. Alla mia lettera ne allegai dunque una di mio fratello, che non sapeva scrivere, per la signorina Fauvette. Spiegai a mio fratello la mia mediazione e la nostra probabilità di cadere proprio su due sorelle della nostra età e fregiate di nomi di battesimo così eccezionali. Vidi con tristezza che non mi ero ingannato sul perbenismo di Carmen, quando, dopo aver pranzato con i miei genitori che mi viziavano e non mi sgridavano mai, rientrai in classe. I miei compagni, appena ficcati nel loro banco, e io in fondo all'aula, rannicchiato per prendere in un armadio, in veste di primo della classe, i testi di lettura ad alta voce, entrò il direttore. Gli alunni si alzarono. Egli teneva in mano una lettera. Mi si afflosciarono le gambe. I libri caddero e io li raccattavo mentre il direttore parlottava col maestro. Subito gli alunni dei primi banchi si girarono verso di me, rosso, perché sentivano bisbigliare il mio nome. Alla fine il direttore mi chiamò e, per punirmi sottilmente, senza bisbigliare, credeva, qualche brutta idea negli scolari, si congratulò con me per la lettera di 12 righe che avevo scritto senza un errore. Mi domandò se l'avevo scritta da solo, poi mi pregò di seguirlo nel suo ufficio. Non ci andammo. Mi fece la predica in cortile, sotto la pioggia a dirotto. Ciò che scosse alquanto le mie condizioni morali fu che egli considerava l'aver compromesso una giovinetta, i cui genitori l'avevano messo al corrente della mia dichiarazione, tanto grave quanto l'aver sottratto un foglio di carta da lettera. Minacciò di spedirmi a casa con il foglio, lo supplicai di non fare nulla. Si arrese, ma mi disse che conservava la lettera e che alla prima ricaduta non avrebbe più potuto nascondere la mia cattiva condotta. Questo miscuglio di sfacciataggine e di timidezza disorientava i miei e li ingannava. Come a scuola la mia facilità vera e propria pigrizia, mi faceva passare per un buon allievo. Tornai in classe. Il professore ironico mi chiamò Don Giovanni. Ne fui altamente lusingato, soprattutto perché citò il titolo di un'opera nota a me e non ai miei compagni. Il suo «Buongiorno, Don Giovanni» e il mio sorriso d'intesa mutarono a mio vantaggio la classe. Forse avevano già saputo che avevo incaricato un bambino delle classi inferiori di portare una lettera a una femmina, come dicono nel loro duro frasario gli studenti. Quel bambino si chiamava Messager. Non l'avevo prescelto per via del suo nome, ma ciononostante quel nome mi aveva ispirato fiducia. Alle ore 1 avevo supplicato il direttore di non dire niente a mio padre. Alle 4 fremevo di raccontargli tutto. Nessuno mi costringeva. La mia confessione l'avrei messa in conto alla franchezza, sapendo che mio padre non si sarebbe arrabbiato. Tutto sommato ero contentissimo che avesse conosciuto la mia prudezza. Quindi confessai, aggiungendo con orgoglio che il direttore mi aveva promesso assoluta discrezione, come a un adulto. Mio padre voleva sapere se non avevo inventato di sana pianta questo romanzo d'amore. Andò dal direttore. Durante la visita parlò per caso di ciò che reputava uno scherzo. «Cosa?» disse allora il direttore, sorpreso e molto seccato. «Vi ha raccontato questo? Mi aveva supplicato di tacere, dicendomi che l'avreste ammazzato!» La bugia del direttore contribuì ancor di più alla mia ebbrezza maschile. Guadagnai così una posizione di stima da parte dei miei compagni e delle strizzatine d'occhio dal maestro. Il poveretto ignorava quello che già sapevo. Mio padre, urtato, aveva deciso di lasciarmi finire l'anno scolastico e di togliermi. Eravamo allora all'inizio di giugno. Mia madre, per evitare che questa storia nuocesse ai miei premi e alle mie medaglie, si riprometteva di divulgare la cosa dopo gli scrutini. Arrivato giugno, grazie a un'ingiustizia del direttore che temeva gli strascichi della sua bugia, ricevetti la medaglia d'oro che avrebbe dovuto meritare un altro rapporto. Calcolo sbagliato. La scuola perse i due suoi allievi migliori perché il padre del primo premio ritirò suo figlio. Scolari come noi servivano da specchietto per attirarne altri. Mia madre mi giudicava troppo giovane per frequentare l'Enrico IV. Nella sua mentalità ciò voleva dire per cominciare bene. Rimasi 2 anni a casa e studiai da solo. Mi prospettavo gioie illimitate, perché riuscendo a fare in 4 ore il lavoro che i miei compagni di scuola non riuscivano a svolgere in 2 giorni, ero libero più di metà della giornata. Passeggiavo solo in riva alla Marna, fiume talmente nostro che le mie sorelle dicevano, parlando della Senna, una marna. Andavo persino sulla barca di mio padre, nonostante la sua proibizione, ma non remavo, senza ammettere che la mia paura non era di disubbidirgli, ma semplicemente paura. Leggevo, sdraiato di quella barca. Dal 1913 al 1914 ci scapparono 200 libri. Non un libro di quelli che son detti cattivi, ma i migliori, se non per il loro spirito, almeno per il loro valore. Inoltre, più avanti, negli anni in cui l'adolescenza disprezza i libri della Biblioteca Rosa, presi gusto al loro fascino infantile, mentre a quell'epoca non avrei voluto leggerli per nessuna ragione al mondo. Lo svantaggio di queste ricreazioni che si alternavano allo studio era di trasformare per me l'anno intero in false vacanze. Così il mio lavoro di ogni giorno era poca cosa, ma giacché studiando meno ore degli altri lavoravo di più durante le loro vacanze, questa poca cosa era come il tappo di sughero che un gatto tiene tutta la vita legato in cima alla coda, mentre avrebbe certo preferito un mese di pentola. Le vere vacanze si avvicinavano e io me ne occupavo pochissimo, perché nulla sarebbe cambiato per me. Il gatto guardava sempre il formaggio sotto la campana, ma arrivò la guerra e ruppe la campana. I maestri ebbero altro da fare e il gatto se ne rallegrò. A dire il vero, ognuno si rallegrava in Francia. I ragazzi, i libri di testo sotto il braccio, si pigiavano davanti ai manifesti. I cattivi alunni approfittavano dello sconcerto delle famiglie. Ci recavamo tutti i giorni dopo cena alla stazione di Jeux, a 2 chilometri da casa, per vedere passare i convogli militari. Ci portavamo delle campanule e le gettavamo ai soldati. Delle signore col camice versavano vino rosso in recipienti e ne spandevano litri sulla banchina disseminata di fiori. Tutto l'assieme mi lascia un ricordo di fuochi d'artificio e mai tanto vino sprecato e fiori morti. Fummo obbligati ad addobbare le finestre di casa. Ben presto non si andò più a Jeux. I miei fratelli e le mie sorelle cominciavano a prendersela con la guerra, la trovavano lunga. Rubava loro la riva del mare. Abituati ad alzarsi tardi, erano costretti a comprare i giornali alle 6. Miserabile distrazione. Ma verso il 20 agosto, questi mostriciattoli riprendono lena. Invece di abbandonare la tavola dove indugiano gli adulti, ci restano per ascoltare mio padre che parla di partenza. Senz'altro non vi sono più mezzi di trasporto. Si dovrà viaggiare a lungo in bicicletta. I fratelli si burlano della mia sorellina. Le ruote della sua bicicletta non misurano che 40 centimetri di diametro. Ti pianteremo da sola per strada. Mia sorella piagnucola. Ma che slancio per lucidare le macchine. Via la pigrizia. Si offrono di aggiustare la mia. Saltano giù all'alba per sapere le notizie. Mentre tutti sono stupiti, scopro infine il movente di quel patriottismo. Un viaggio in bicicletta fino al mare. E un mare più lontano, più bello del solito. Bruciasse pure Parigi se avesse affrettato la partenza. Ciò che terrorizzava l'Europa era diventato la loro unica speranza. L'egoismo dei ragazzi è così diverso dal nostro. D'estate in campagna malediciamo la pioggia che cade e i contadini la invocano. È raro che un cataclisma avvenga senza fenomeni premonitori. L'attentato austriaco, il tempestoso processo Caillou, diffondevano un clima irrespirabile, favorevole alla stravaganza. Ed ecco come. I miei fratelli e io ci burlavamo di un nostro vicino, buffo buon uomo, nano, con barbetta bianca e cappuccio, consigliere municipale di nome Maréchaux. Tutti lo chiamavano Papà Maréchaux. Benché porta a porta ci si proibiva di salutarlo, cosa che lo faceva andare in bestia, tanto che un giorno, non potendone più, ci abbordò sulla strada e ci disse: «E allora? Non si saluta un consigliere municipale?» Ce la demmo a gambe. Quella impertinenza fu la dichiarazione delle ostilità. Ma quale potere aveva su di noi un consigliere municipale? Tornando da scuola o andandoci, i miei fratelli tiravano il suo campanello, molto più coraggiosi del cane che, avendo presso poco i miei anni, non era temibile. La vigilia del 14 luglio 1914, andando incontro ai miei fratelli, vidi con grande sorpresa un crocchio davanti al cancello dei Maréchaux. Alcuni tigli sfrondati malcelavano la villa in fondo al giardino. Dalle 2 del pomeriggio la loro giovane governante, diventata pazza, si era rifugiata sul tetto e si rifiutava di scendere. Subito i Maréchaux, spaventati dallo scandalo, avevano chiuso le persiane, sicché la tragedia di una pazza su un tetto s'aggravava per il fatto che la casa sembrava disabitata. La gente gridava, indignata, che i padroni non facessero niente per salvare quella disgraziata. Ella barcollava sulle tegole, senza peraltro aver l'aria ubriaca. Non avrei mai voluto muovermi di lì. Ma la nostra governante, spedita da mia madre, venne a richiamarci allo studio. Altrimenti niente festa. Me ne andai, con la morte nell'animo, pregando Dio che la governante fosse ancora sul tetto quando sarei andato alla stazione a prendere mio padre. Era ancora lassù, ma i radi passanti che rientravano da Parigi si sbrigavano a rincasare per cena e a non perdere il ballo. Le dedicavano solo un minutino, distratti. D'altronde, fin qui per la governante non si trattava che di una prova generale. Il suo debutto l'avrebbe fatto la sera, secondo l'usanza, su una vera ribalta formata dalle girandole luminose. C'erano allo stesso tempo quelle del viale e quelle del giardino, perché i maresciaux, malgrado la loro finta assenza, non avevano osato, in qualità di notabili, astenersi dall'accendere. A rendere fantastica quella casa del delitto, dove sul tetto passeggiava, come sul ponte di una nave pavesata, una donna dalle chiome ondeggianti, contribuiva assai quella voce femminile, inumana, gutturale, di una dolcezza che dava la pelle d'oca. I pompieri di un piccolo comune, essendo dei volontari, durante la giornata si occupavano di tutt'altro che di incendi. Sono il lattaio, il pasticcere, il fabbro, che finito il loro lavoro vanno a spegnere l'incendio, se non si è spento da solo. Dal giorno della neomobilitazione, formavano oltretutto una specie di milizia misteriosa, addetta a pattugliamenti, manovre e ronde notturne. Finalmente quei prodi arrivarono e si fecero largo tra la folla. Una donna si fece avanti. Era la moglie di un consigliere municipale, avversario di Maresciaux, la quale da alcuni istanti strepitava di commozione per la pazza. Fece delle raccomandazioni al capitano. «Cercate di prenderla con la dolcezza. Ne è stata così privata la poverina in questa casa, in cui la picchiano. Soprattutto se è la paura di essere scacciata e di trovarsi sul lastrico che l'hanno spinta a tanto, ditele che l'assumerò io, le raddoppierò lo stipendio!» Tale plateale carità produceva sulla folla un effetto mediocre. La signora l'annoiava, si pensava solo alla cattura. I pompieri, sei di numero, scalarono la cancellata, accerchiarono la casa, arrampicandosi su tutti i lati. Ma non appena uno di loro apparve sopra il tetto, la folla, come i bambini al teatro di burattini, prese a berciare e a mettere in guardia la vittima. «Ma state zitti!» gridava la signora, e ciò aumentava gli «Eccone uno! Eccone uno!» del pubblico. A quelle grida, la pazza, armatasi di tegole, ne scappando su scatto del pompiere arrivato al tetto. Gli altri cinque ridiscesero in fretta. Mentre i tiri a segno, le giostre, i banchi piazzati dal municipio si lamentavano di vedere così pochi clienti proprio la notte di un incasso sicuro, i più spericolati marmocchi scalavano i muri e si pigiavano sul prato per seguire la caccia. La pazza diceva delle cose che ho scordato, con quella profonda, rassegnata malinconia che dà a una voce la certezza di aver ragione e che tutti gli altri sbagliano. Nonostante preferissero questo spettacolo alla fiera, i marmocchi cercavano di accoppiare i divertimenti, pur ansiosi che la pazza potesse essere presa in loro assenza, correvano presto a fare un giro di cavalli a dondolo. Altri, più giudiziosi, sistemati sui rami dei tigli, come per la sfilata di Vincennes, si accontentavano di accendere dei fuochi di Bengala e dei pedardi. Immaginarsi l'angoscia dei coniugi Maresciaux, a casa loro, barricati in mezzo a quel baccano e a quei barlumi. Il consigliere municipale, marito della signora caritatevole, inerpicato sul muricciolo del cancello, improvvisò una concione sulla vigliaccheria dei proprietari. Fu applaudito. Credendo di essere lei, la pazza saltava, un pacco di tegole sotto ogni braccio, poiché ne buttava giù una ogni volta che luccicava un casco. Con voce inumana ringraziava di essere stata finalmente capita. Mi figuravo una ragazza, capitano corsaro, rimasta sola sulla sua nave che affonda. La folla si disperdeva, un po' stufa. Avevo voluto rimanere con mio padre, mentre mia madre, per accontentare quella voglia di nausea che hanno i bambini, portava i suoi da una giostra a una montagna russa. Certo, anch'io sentivo questo strano bisogno, come i miei fratelli. Mi piaceva che il cuore mi battesse in fretta e irregolare. Ma quello spettacolo, profondamente poetico, mi soddisfaceva di più. «Come sei pallido», aveva detto mia madre. Trovai a pretesto i fuochi di Bengala. Dissi che mi davano un colore verde. «Temo comunque», disse a mio padre, «che questa storia impressioni troppo». «Oh», egli rispose, «può guardare qualsiasi cosa, tranne un coniglio che viene scorticato». Mio padre lo diceva per farmi restare, ma sapeva che quello spettacolo mi sconvolgeva. Sentivo che anche lui ne era sconvolto. Gli chiesi di prendermi sulle spalle per vedere meglio. In realtà stavo per svenire, le gambe non mi reggevano più. Ora non si contavano che una ventina di persone, si udirono le trombe. Era la fine delle luminarie. 100 fiaccole illuminavano intanto la pazza, come dopo le tenue luci del palcoscenico scoppia il magnesio per fotografare una nuova stella. Allora, agitando le mani in segno di addio e credendo fosse la fine del mondo o semplicemente che andassero a prenderla, lei si gettò giù dal tetto. Nella caduta sfondò la tettoia con un fracasso spaventoso e andò a spiaccicarsi sui gradini di pietra. Fin qui avevo cercato di resistere a tutto, benché le orecchie mi fischiassero e il cuore mi mancasse. Ma quando udii qualcuno gridare «È ancora viva!», privo di conoscenza, caddi dalle spalle di mio padre. Ripresi i sensi, egli mi portò in riva alla Marna. Ci restammo fino a tardi, in silenzio, distesi sull'erba. Di ritorno credetti di vedere dietro la cancellata una sagoma bianca, il fantasma della governante. Era papà Maresciò, con un berretto di tela, che stava contemplando le rovine, la sua tettoia, le sue tegole, i suoi prati, i suoi muri, i suoi scalini coperti di sangue, la sua onorabilità distrutta. Se ho insistito su un simile episodio, è perché più di ogni altro può farci capire lo strano periodo di guerra e quanto più del pittoresco mi colpisse la poesia delle cose.